Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Pestaggio ad Alatri, fermati sono due fratelli italiani. L'accusa di omicidio volontario, tra le ipotesi il controllo del territorio. Arriva la lettera con la quale Minzolini si dimette dal Senato. Sono una persona seria, non prendo lezioni. Intanto continua ad infuriare la polemica sulle parole del ministro del lavoro Poletti. Gasdotto in Puglia, dopo il via libera del Consiglio di Stato ripartono i lavori. La polizia forza il blocco dei no tap, riprenderà l'espianto temporaneo degli ulivi. Bloccano l'ambulanza, il grido di vergogna perché andava contromano e postano tutto su Facebook. Grave il paziente che era a bordo, operato alle Molinette di Torino. Calcio dopo la vittoria con l'Albania, questa sera l'Italia è in campo contro l'Olanda per un amichevole. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666, il numero per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, mentre siamo anche in diretta sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, e anche ovviamente su quella di Radio 24. Prima di andare ad Alatri, le ultime notizie che stanno arrivando in questi minuti da Melendugno, dove c'è il cantiere del gasdotto TAP, i manifestanti sono stati caricati dalla polizia, notizia di pochi istanti fa, e dovremmo essere in linea con il sindaco di Melendugno che è con noi, che è Marco Potì. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, cosa è successo? Una cosa incredibile, ci sono dei cittadini che pacificamente protestavano per evitare il sacrificio anticipato e non giustificato di questi ulivi, che è la punta dell'iceberg di questo progetto, e la polizia ha sgomberato perché devono passare quattro camionette di una ditta privata. Ha sgomberato i sindaci, i consiglieri regionali e i cittadini. Ma mi scusi sindaco, sgomberato, sgomberato o caricato? Cioè c'è una differenza tra le due cose? Si hanno spostato con forza, come lo vuoi interpretare, non hanno usato i manganelli per fortuna. Allora, sindaco, questa è la situazione. Sono tante fasce qua, non è un caso, non sono io un pazzo che sto qui in mezzo alle persone. No, ma noi chiediamo, chiediamo se sta, come è stata usata la forza, insomma, giusto per capire appunto se è stato uno sgombero o se è stata una vera e propria carica, come stanno dicendo le agenzie in questi minuti, insomma, molto semplicemente. Le faccio vedere le foto e poi le interpretate voi. È stata. Spero che si sia calmata la situazione, anche se siamo tutti qua in mezzo. La ringrazio, grazie Marco. Ci sono disabili, persone, donne e bambini in mezzo a questa folla. Non è il caso per una società privata che decide di andare contro lo Stato, e noi siamo dalla parte della società privata. Questa è la nostra considerazione. Allora, sindaco, io la ringrazio, magari torneremo a collegarci più avanti con lei, ci collegheremo anche con Domenico Palmiotti che ci farà la cronaca di quello che sta succedendo. Intanto la ringrazio per la sua testimonianza. Veniamo alle vicende di Alatri, siamo in diretta con la nostra Raffaella Calandra per un punto. Raffaella, vai. Sì, Simone, dalla cortina dei silenzi di Alatri emergono dei fotogrammi che disegnano i volti dei primi firmati e danno un po' più di chiarezza sull'aggressione mortale ad Emanuele Morganti. Due fratellastri, Mario Castagnacci e Paolo Palmisani, sono stati infatti bloccati a Roma mentre erano nascosti da parenti. Sarebbero i responsabili dei colpi che hanno ucciso il ventenne all'uscita dal locale. Un'aggressione brutale innescata da un litigio per una bibita, pare, e favorita da un mix di droga e alcol da parte di chi ha strattonato il giovane, immobilizzato e ripetutamente colpito fino ad ucciderlo. I sette indagati, compresi due fermati, appartengono ad ambienti della microdelinquenza del posto, fa sapere il procuratore capo di Frosinone, De Falco. Le persone fermate sono riconducibili ad ambienti delinquenziali e non è da escludere che abbiano in qualche modo inteso affermare una propria capacità di controllo del territorio. Un controllo del territorio che non ha nulla a che vedere con le dinamiche della malavita organizzata, ma molto di più con quelle di delinquenti desiderosi di affermare la supremazia o vendicare una presunta offesa subita, anche solo per una bibita. Nonostante la svolta, molto ancora resta da chiarire. Restano da trovare le armi del delitto, manganello e tubolare, e resta da definire un aspetto fondamentale che potrebbe cambiare la posizione giudiziaria degli indagati, se cioè ci sia stata o meno la predeterminazione nell'organizzazione di questo omicidio, che resta avvolto da fitti silenzi, tanto che dopo il sindaco e il fratello di Emanuele ora sono gli stessi inquirenti a chiedere chissà parli. E grazie dunque alla nostra Raffaella Calandra per questo aggiornamento sulle vicende di Alatri. Veniamo al fronte della manovra, ci spostiamo evidentemente sulla politica e su Roma. Siamo in linea con Vincenzo Miglietta per avere un quadro della situazione in ore importanti nelle quali si va definendo tanto la manovra correttiva, quella richiesta dall'Europa, quanto il DEF. Vincenzo. Sì, buongiorno Simone, una correzione dei conti e partiamo da qui, quella chiesta da Bruxelles entro aprile da 3,4 miliardi, che strada facendo potrebbe andare oltre una semplice correzione finanziaria. Palazzo Chigi punta ad inserire infatti anche un incentivo allo sviluppo, uno stimolo alla crescita e all'inclusione sociale, come ama definirla Padoan, con un focus particolare nelle zone terremotate del centro Italia. Circa un terzo dei 3,4 miliardi di aggiustamento saranno destinati proprio alle aree colpite dal sisma, con un pacchetto di possibili agevolazioni fiscali ed interventi pro investimenti. 1 miliardo l'anno per 3 anni sarà previsto dal decreto. Che la manovra non dovesse avere un carattere regressivo ma dovesse concentrarsi anche sulla crescita è stato in questi mesi ribadito dalla maggioranza. Il premier Gentiloni ha assicurato che le priorità anche del DEF saranno lavoro e investimenti. In particolare poi, Simone, qualora il documento di economia e finanza dovesse, come è ormai certo, contenere una revisione al rialzo del PIL dall'1% all'1,1-1,2%, la correzione non sarebbe più di 3,4 miliardi ma di 3 miliardi coperti allora con tagli di spesa, accise sui tabacchi e rafforzamento del meccanismo di liquidazione dell'IVA nella pubblica amministrazione. È tutto, linea allo studio. E grazie dunque a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Come si diceva, ci dovrebbe essere anche un elemento che riguarda le popolazioni terremotate in questa manovra. Ci colleghiamo con Alessandra Schepisi, che è in attesa, e non so se sia iniziata, Alessandra, la conferenza stampa alla quale prenderanno parte lo stesso Gentiloni insieme ai presidenti delle regioni proprio per parlare di questo. Alessandra. Sì, buongiorno Simone. Sì, è cominciata da pochi minuti la conferenza stampa del premier Gentiloni al termine della cabina di regia con i presidenti delle regioni colpite dal terremoto, e Gentiloni ha confermato l'inserimento nella cosiddetta manovrina di aprile di oltre un miliardo, ha detto, a sostegno dell'economia delle zone terremotate, un incentivo allo sviluppo con un pacchetto di possibili agevolazioni fiscali, di interventi a favore degli investimenti. Quella di metà aprile, ha detto il premier, sarà un decreto correttivo e per il sostegno alla crescita, con un fondo dunque per la ricostruzione dell'ammontare di oltre 1 miliardo per i prossimi 3 anni. Servirà per adottare misure per la ricostruzione, per il sostegno al reddito e all'attività delle imprese attraverso cosiddette zone franche, misure per la sicurezza degli edifici, ha detto Gentiloni. Servirà per dare un messaggio importante di continuità alle popolazioni rispetto a un lavoro che va avanti dalla metà di agosto, perché non dobbiamo mai dimenticare la gravità di quanto accaduto. Dunque tra poco prenderanno anche la parola i presidenti delle regioni presenti qua, il presidente del Lazio Ceriscioli, delle Marche e dell'Abruzzo, anche il capo del Dipartimento della Protezione Civile Curcio e il commissario per la ricostruzione Vania. Da Palazzo Chigi è tutto. E grazie dunque anche ad Alessandra Schepisi per questo aggiornamento. Veniamo alla politica vera e propria. È arrivata la lettera di dimissioni di Augusto Minzolini dal Senato. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Come ha annunciato nei giorni scorsi, l'ex direttore del TG1 Augusto Minzolini ha presentato le sue dimissioni da Palazzo Madama dopo che l'Aula del Senato ha respinto la sua decadenza. Sono una persona seria, non prendo lezioni da altri, ha detto il senatore di Forza Italia che ha presentato proprio la lettera alla presidenza del Senato. Minzolini è stato condannato definitivamente per peculato a 2 anni e 6 mesi per l'utilizzazione della carta di credito aziendale la RAI, ma le dimissioni, ed è questo il punto, devono essere accettate e votate dall'aula di Palazzo Madama, e non è detto che lo siano, Simone. La prima volta vengono respinte automaticamente e poi possono essere rivotate e rirespinte. Attacca il presidente della NM Piercamillo Davigo, per il quale era dovere del Senato dichiarare il parlamentare decaduto. A te, Simone. Sì, Elisabetta, c'è anche un altro snodo che sta emergendo in queste ore, che sono le dichiarazioni del ministro Poletti che continuano a creare polemiche, no? Sì, non è la prima volta che il ministro del welfare si lascia andare a gaffe per trovare lavoro, ha detto Poletti. Il rapporto di fiducia è un tema sempre più essenziale e si creano più opportunità andando a giocare a calcetto che a mandare curricula. Parole che hanno comunque suscitato indignazione. Il ministro tenta oggi di tornare indietro. Allora sentiamo Poletti. Vale molto il sapere e vale molto l'essere, vale molto studiare, imparare, conoscere, e vale altrettanto avere una buona relazione con la collettività, vivere con gli amici. Insomma, io incontro molte persone che si occupano di reclutamento di personale nelle imprese e tutti mi dicono: guarda, io cerco di capire chi sono questi ragazzi e poi chiedo loro cosa sanno. E questo è tutto, Simone. Grazie dunque anche ad Elisabetta Ferrito per questi aggiornamenti. Sempre per la politica, Marika Cassimatis, l'ex vincitrice delle comunali del Movimento 5 Stelle ed ex candidata sindaco di Genova, che Beppe Grillo ha deciso di annullare con un suo post sul blog il 17 marzo. La Cassimatis ha annunciato di voler ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, ossia al TAR, per chiedere la sospensiva del voto online nazionale e il reintegro della nostra lista. Cassimatis aveva già depositato querela per diffamazione nei confronti di Beppe Grillo e Alessandro Di Battista. Torniamo dunque a Melendugno per i lavori per il gasdotto TAP. Abbiamo sentito il sindaco di Melendugno in apertura che ci raccontava di questo sgombero effettuato dalla polizia, non una vera e propria carica come abbiamo visto invece scritto sulle agenzie. Vediamo di fare un punto sulla situazione più puramente giornalistico con il nostro Domenico Palmiotti. Domenico, buongiorno. Buongiorno. La polizia sta appunto cercando con questa azione di sgombero di creare il varco affinché i cinque camion già pronti con gli ulivi già espiantati possano transitare e possano raggiungere il luogo dove questi alberi verranno nuovamente messi a dimora, perché va chiarita, non si tratta di uno sradicamento degli ulivi ma di un espianto temporaneo. Gli ulivi vengono tolti da questa zona interessata ai lavori successivi del microtunnel per essere reimpiantati altrove e torneranno laddove vengono tolti quando i lavori appunto saranno finiti. La situazione di TAP ha avuto un cambiamento, un'accelerazione nelle ultime ore. Ieri pomeriggio, con la sentenza del Consiglio di Stato che ha riconosciuto la piena legittimità dell'autorizzazione unica rilasciata all'opera dal MISE già a maggio 2005, contro questa autorizzazione unica avevano fatto ricorso al TAR perdendolo e poi al Consiglio di Stato, perso anch'esso sia Regione Puglia che Comune di Melendugno, e poi nelle ultime ore è arrivato anche un nuovo via libera del Ministero dell'Ambiente, che ha chiarito definitivamente questa volta alla prefettura di Lecce che TAP può espiantare gli ulivi, che ha le autorizzazioni per farlo, che la procedura è del tutto regolare. Adesso si sta verificando se la Regione Puglia, per bloccare comunque l'espianto degli ulivi, potrebbe revocare eventualmente in autotutela le autorizzazioni all'espianto che alcuni suoi uffici, quelli del Dipartimento Agricoltura, hanno rilasciato a TAP. Questo in attesa di vedere in una fase successiva se impugnare anche al TAR le ultime note del Ministero dell'Ambiente. Quindi una situazione in evoluzione è tutt'altro che finita e chiarita. Che continua ad essere giuridicamente complessa, come spesso avviene in questi casi. Grazie dunque a Domenico Palmiotti, anche a te per questo aggiornamento. All'estero adesso restano in primo piano le vicende della Russia dopo le manifestazioni dei giorni scorsi. Sentiamo. Altre condanne per le manifestazioni di domenica scorsa a Mosca organizzate dalla Fondazione Anticorruzione di Andrei Navalny, uno dei leader dell'opposizione, a cui ieri il Tribunale di Mosca ha comminato 15 giorni di carcere e 320 euro di multa per avere convocato una manifestazione non autorizzata. Oggi altri suoi collaboratori sono stati condannati a pene variabili tra i 10 e i 25 giorni. Alcuni erano stati arrestati negli uffici della fondazione, da dove esortavano i sostenitori del movimento a scendere in piazza a Mosca e in altre città della Russia attraverso internet. L'accusa nei loro confronti era di istigazione all'odio. Navalny sostiene che il premier Medvedev sia a capo di una rete corrotta di fondazioni di beneficenza attraverso le quali percepisce tangenti. Ieri l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno fermamente protestato per la severa reazione del governo russo alle manifestazioni. Rispettiamo l'attivismo politico, ha replicato il Cremlino, ma nell'ambito delle leggi vigenti. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Mosca. Andiamo a chiudere questa prima parte della trasmissione andando a parlare di calcio con il nostro Carlo Genta, che ci ha raggiunto in studio, e per parlare dell'amichevole di questa sera, quella tra Italia e Olanda. Carlo, ciao. Eccoci. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Sì, Italia-Olanda, anzi Olanda-Italia, visto che si gioca ad Amsterdam alle 20.45, un tempo sarebbe stata anche una grande amichevole. Oggi l'Olanda è un po' dimessa, addirittura non ha l'allenatore perché ha licenziato Blind, che malissimo ha fatto fin qui sulla via delle qualificazioni mondiali. Ci interessa soprattutto vedere in campo le nuove leve azzurre, a cominciare da Donnarumma, 18 sì, anni, più, sì. Il più giovane titolare della nazionale nella storia. Sarà un'Italia fatalmente diversa da quella che abbiamo visto contro l'Albania, che era gara ufficiale per le qualificazioni mondiali. In difesa, insieme a Bonucci, ci saranno Rugani e Romagnoli, quindi Verratti guiderà il centrocampo con la maglia numero 10, davanti Immobile e Deder, e poi nella ripresa certamente vedremo un sacco di cambi e vedremo anche un sacco di altri ragazzi giovani pronti per il debutto azzurro. Sì, e anche perché anche il momento giustamente di sperimentare occasioni come queste lo sono. Allora grazie a Carlo, che ritroviamo ovviamente alle 14, dopo il giro delle 14, in tutti convocati. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade mentre siamo in diretta sempre anche sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, e su quella di Radio 24, e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Inizieremo da Milano, la vicenda di Norberto Confalonieri, il medico dell'ospedale Filippini, che è passato su alcuni giornali come, aperte virgolette, lo spezzafemori, e ieri è arrivata la sua difesa e abbiamo deciso di dar voce anche a questa difesa, perché a volte magari con la gente ce la pigliamo un po' troppo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di quello che sta succedendo a Melendugno, dove sono ripresi i lavori per l'espianto, e poi ci sarà anche il riposizionamento degli ulivi per la costruzione del gasdotto TAP del Pestaggio ad Alatri, con il fermo di due fratelli italiani noti alle forze dell'ordine, della lettera con la quale Minzolini si dimette dal Senato, di calcio e anche della manovra. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, ma non prima, come sempre, di aver letto qualche messaggio che arriva da voi. Vedo molti sms di ascoltatori che riguardano proprio la vicenda del gasdotto TAP. Ascoltatori che ci dicono, addirittura quelli un po' più duri dicono, beh, la polizia doveva usare i manganelli. Sinceramente state esagerando davvero. Di certo c'è una decisione del Consiglio di Stato, e questa decisione del Consiglio di Stato va rispettata, come ci scrive un ascoltatore affezionato un po' di tutta Radio 24, perché scrive spessissimo Ulisse, la polizia fa il suo dovere e gli ulivi non vengono distrutti, punto e basta, c'è poco altro da dire. Sapete come la penso su questo punto. Avevamo già ospitato il sindaco di Melendugno e con il sindaco di Melendugno, ecco, qualcuno mi aveva accusato di essere stato un po' di parte. Io lo dichiaro, da questo punto di vista sono effettivamente di parte. Quest'opera sa da fare, che il sindaco di Melendugno lo voglia oppure no. Infine fatemi ricordare che proprio a quest'ora ieri abbiamo letto qualche sms di ascoltatore che diceva: vergogna, non dite qual è la nazionalità degli aggressori di Alatri. Come vi abbiamo dimostrato, abbiamo fatto bene a mantenere la massima cautela, perché gli albanesi che vivono ad Alatri non c'entravano nulla con questa vicenda, ma erano due italiani noti alle forze dell'ordine, due persone fermate, sarebbero loro gli autori del pestaggio. Un sarebbero necessario, perché insomma oggi diamo spazio a quello che è un corretto garantismo nei confronti di una persona che è stata arrestata nei giorni scorsi e che è apparsa sui giornali con appellativi del genere il dottor spezzafemori. Parliamo di Norberto Confalonieri, che lavorava, al momento immagino sia sospeso, al CTO Pini di Milano, un importante ospedale ortopedico del quale sono state diffuse che è stato arrestato, sono state diffuse delle intercettazioni nelle quali parlava di un femore spezzato ad una donna anziana per esercitarsi. E ieri c'è stata la sua difesa, l'interrogatorio è stato sentito e ha detto: attenzione, quelle erano solo dichiarazioni goliardiche. Siamo in linea con Ivana Anomali, che è la sua avvocata. Buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno a voi. Allora, tra l'altro, quello che ha detto ieri durante l'interrogatorio, no, di garanzia con Falonieri sembra anche confermato da quello che ha deciso il GIP, nel senso che il GIP non ha mai accettato l'accusa di lesioni. Assolutamente, per quanto riguarda i reati di lesione è tutto ancora in fase di indagine, quindi non è stata accolta la richiesta del pubblico ministero in relazione a un'ordinanza di custodia anche sulle lesioni. Cosa dice su quella telefonata con Falonieri? Che cosa sostiene il suo assistito? Allora, ripeto ancora quello che ho avuto modo di dire in questi giorni, che quando una persona viene arrestata per delle intercettazioni e le intercettazioni che vengono vagliate dalla procura sono dei piccoli stralci di una telefonata magari molto molto più lunga. Posto che concordiamo tutti, concordo anch'io con voi e con chi ci ascolta, che alcuni termini possono essere considerati forti o impropri, occorrerebbe vedere e sentire, anche non solo leggere, ma anche sentire il tono di voce che aveva con Falonieri nella telefonata e anche quello che è stato detto nel resto di questa telefonata, il rammarico per aver operato una signora anziana e la complicanza dell'intervento. Quando veramente io lo chiedo e chiedo anche voi di prestare attenzione a quando si leggono dei piccoli stralci che vogliono dire tutto ma di fatto non vogliono dire nulla. Lei prima, e mi riaggancio a quello che ha detto lei prima, consiglio a tutti di non scrivere, di non utilizzare i manganelli e che state esagerando. Ritengo che anche adesso nei confronti del professor Confalonieri si stia esagerando. Senta, invece poi ci sono tutte le altre accuse, quelle che il GIP ha ritenuto che avessero una qualche fondatezza, poi tutto andrà visto in giudizio, che sono quelle di fatto di aver ricevuto, la semplifico molto, no? Di aver ricevuto delle sorte di tangenti dalle aziende che producono le protesi che lui utilizzava. Ecco, allora, relativamente, quello che mi preme intanto evidenziare è che tutti sappiano che, a differenza di molti altri interrogatori di garanzia dove l'indagato si avvale della facoltà di non rispondere o di rispondere parzialmente alle domande, il professor Confalonieri, che nei confronti della magistratura è sereno, un po' meno è nei confronti dei media che l'hanno buttato in prima pagina come mostro, nei confronti della magistratura è sereno, ha risposto a tutte le domande, ivi comprese le domande su, sì, diciamo, utilizzo il suo termine, sulle, sì, tangenti. Non si tratta chiaramente di tangenti, si tratta tra l'altro, dal punto di vista di bonifici, si tratta di 16.000 euro, sì, in 4 anni, quindi veramente una somma esigua, che è stata data al professor Confalonieri, regolarmente fatturata e quindi senza nessun, agli occhi di tutti senza nessun problema, esclusivamente per le sue prestazioni ai congressi. Sì. Spiego meglio il perché, sì, Confalonieri è forse uno dei pochi che viene chiamato ai congressi. La figura di Confalonieri, magari tutti non la conoscono, è la figura di un luminare che ha dato lustro non solo all'Italia, ma è famoso in tutto il mondo. È chiaro che una tipologia di lavoro, quindi viene come chiamato come speaker ad un congresso e viene pagato per fare lo speaker ad un congresso, questa è la sostanza. Questi, sì, ma viene pagato viene pagato a titolo di rimborso, sì, del viaggio, sì, non che viene pagato e viene remunerato come speaker. Ecco, perché per il resto è tutto a titolo gratuito per la divulgazione, sì, delle sue capacità, competenze, know-how, sì, e scienza. Allora, io la ringrazio, grazie a Ivana Anomali, che è l'avvocata del professor Confalonieri. Voglio essere chiaro con gli ascoltatori che ci scrivono: nessuno vuole fare santo subito Confalonieri, come ci scrive qualcuno via WhatsApp. Semplicemente abbiamo ritenuto opportuno dare voce anche alla difesa dopo tutti gli attacchi che ha subito il professore. Poi magari sarà colpevole e saremo i primi a dirlo nel momento nel quale sarà colpevole e sarà riconosciuto in giudizio. E dall'altra parte un ascoltatore ci dice: anche il linguaggio dei medici va controllato anche nel privato. Ma di cosa stiamo parlando? Perché le cose che lei dice al bar possono essere controllate e possono essere penalmente perseguibili. Su, siamo un pochino più seri. Buongiorno. buongiorno ad Anna Cosima Inguscio, che è in linea con noi, è del Partito Democratico, è avvocato e consigliera comunale del PD a Copertino, siamo in provincia di Lecce, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, dove si è scoperto che il congresso, leggo il titolo dall'edizione locale della Repubblica, votanti fantasma e risultato deciso a tavolino. Ma cosa è successo? Si sono riuniti e hanno detto, vabbè, diamo il 60% a Renzi, il 30% a Speranza, Orlando e il resto ad Emiliano. Com'è andata così più o meno? Praticamente capito tutto, perfetto. Hanno dato 100 voti ad Renzi, 85 ad Emiliano e 67 a Orlando. Quindi più o meno, insomma, ecco, sì, quello, la percentuale è quella. La percentuale più o meno è quella. Senta, e lei ha denunciato, pur essendo una consigliera del Partito Democratico, no? Ha detto no, così non va. Eh beh sì, c'è stato un voto contrario che non è il mio, lo voglio specificare, lo voglio sottolineare, non è stato il mio perché io sono arrivata quando già si era consumato il misfatto e mi era stato comunicato che in realtà io avevo già votato pur non avendo votato. Sì. E che c'era stato, e che c'era, lei ride però non è una... Mi dispiace molto di quello che è accaduto. Beh, lo capisco, quando uno ha una passione politica e vede che no, sotto c'è una mezza fregatura, è chiaro che, no, che si dispiace. Assolutamente, perché adesso siamo presi un po' di mira anche dai 5 Stelle, io sono capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, sono consigliere provinciale, quindi sono molto dispiaciuta di quello che è accaduto a Copertino nella mia sezione, che è una sezione storica, la sezione del Partito Comunista. Mi ascolti Inguscio, a modo di capire, perché tanto si è detto su questi congressi locali del Partito Democratico, a modo di capire se ci siano stati fenomeni simili in altri luoghi? No, non mi assumo responsabilità, non conosco assolutamente, credo proprio di no, perché le percentuali sono molto molto basse dei votanti, quindi... assolutamente no, si stanno svolgendo tutti i congressi regolarmente. Annullato comunque il voto a Copertino, no? Il voto è stato annullato ed è stato tutto aggiornato a sabato. La ringrazio, grazie Anna Cosima Inguscio, avvocata e consigliere comunale del Partito Democratico a Copertino, provincia di Lecce. Una vicenda adesso che ci porta nel torinese, che veramente ha dell'incredibile. Davide Castelli, il presidente... Non ce l'abbiamo il presidente della Croce Rossa di Beinasco? No? Allora guarda, facciamo una cosa, sono le 13:28 minuti, ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, mentre siamo sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, se volete potete continuare a scrivere, e poi parliamo di questa storia pazzesca, due persone che fermano l'ambulanza perché l'ambulanza, si viene spiegato, va contromano e adesso la persona che era a bordo è là, tra la vita e la morte a quanto pare. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli. Gasdotto in Puglia, dopo il via libera del Consiglio di Stato sono ripartiti i lavori, la polizia ha forzato il blocco dei NOTAP, come avete sentito ci sarebbe qualche contuso, riprenderà l'espianto temporaneo degli ulivi. Il pestaggio ad Alatri, i fermati sono due fratelli, a quanto pare italiani, noti alle forze dell'ordine, l'accusa di omicidio volontario, tra le ipotesi il controllo del territorio. È arrivata la lettera con la quale Minzolini si dimette dal Senato. Sono una persona seria, non prendo lezioni. Intanto in furia la polemica sulle parole del ministro del lavoro Poletti. Bloccano l'ambulanza, il grido di vergogna perché andava contromano e postano tutto su Facebook. Grave il paziente che era a bordo, operato alle Molinette di Torino. Tra poco parleremo anche di questa vicenda. Intanto andiamo sulla borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo e il nostro giro per l'Italia ci porta adesso nel torinese. Forse c'è anche quello che ci scrive un ascoltatore, dice, no? Oltre all'ignoranza su alcune regole base del codice della strada c'è anche una voglia spasmodica di mettersi in mostra sui social. La vicenda di queste due persone che decidono di bloccare un'ambulanza con a bordo una persona che aveva un'emorragia interna, quindi non poco, perché questa ambulanza andava contromano, la bloccano urlando vergogna, fanno il video e lo postano su Facebook. Davide Castelli, che è in linea con noi, è il presidente della Croce Rossa di Beinasco. Buongiorno Castelli. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. È andata più o meno così, no? E la vicenda sì, effettivamente è andata proprio in questi termini, nel senso che è un nostro mezzo di soccorso, una unità mobile di rianimazione con infermiera a bordo, oltre che l'equipaggio, stava effettivamente trasportando un paziente con un'emorragia in corso ed è stata bloccata da due automobilisti che hanno impedito proprio il passaggio del mezzo e li hanno fatti tornare indietro utilizzando una strada alternativa più lunga, soprattutto colma di auto a quell'ora, in quanto ora di punta. Ci hanno messo una ventina di minuti di più, mi sembra di aver capito. Adesso sì, quantificarlo potrebbe essere 10 minuti e un quarto d'ora. Senta, ma tecnicamente un'ambulanza può andare contromano oppure no? L'ambulanza, ai sensi dell'articolo 177... Perché qualche ascoltatore, glielo chiedo non a caso Castelli, certo. Perché qualche ascoltatore lo dice, neanche l'ambulanza può andare contromano perché metterebbe in pericolo le vite di altre persone. Allora, l'ambulanza ai sensi dell'articolo 177,2 del codice della strada può, nel momento in cui utilizza congiuntamente dispositivi acustici e luminosi supplementari di allarme, quindi le sirene lampeggianti, come vengono volgarmente definiti, può derogare le norme del codice della strada. Quindi l'ambulanza può andare contromano, può passare con il rosso, ovviamente dietro una giustificazione. In questo caso avevamo un paziente critico a bordo. Un paziente critico a bordo. E come sta il paziente a proposito? Il paziente è stato trattato all'ospedale Molinetta in quanto doveva essere sottoposto a un intervento e in questo momento non abbiamo ancora informazioni relativamente allo stato di salute del paziente. E voi avete fatto, mi pare, ha fatto anche delle azioni per tutelarvi, per così dire, no? Per, nel caso le condizioni del paziente si aggravassero? Certamente, certamente. Abbiamo sporto querela presso la stazione carabinieri di competenza per interruzione di pubblico servizio, proprio per tutelare in primo luogo il paziente e ovviamente l'immagine del nostro ente che è stata lesa sui social. La ringrazio, grazie a Davide Castelli per essere stato con noi e mentre siamo e continuiamo ad essere in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, così come sulla pagina Facebook di Radio 24, è il momento di occuparci, lo facciamo praticamente tutti i giorni, qualche volta saltiamo gli appuntamenti, ma vi assicuro che è un caso, torniamo ad occuparci della situazione nelle zone colpite dal terremoto. Come vi abbiamo detto nelle ore scorse, nei giorni scorsi, abbiamo sentito molto i sindaci nella prima parte per sentire come stavano vivendo la situazione, quali erano i problemi, soprattutto dal lato burocratico della ricostruzione. Adesso siamo passati un po' più ad occuparci di quelle che sono le categorie produttive e quello che stanno vivendo in questa fase, in un'area che non è solamente quella del cratere, ma è un'area molto più vasta, perché la paura, soprattutto per quelle aree che vivono di turismo, si è instillata nelle persone ed evidentemente le prenotazioni faticano a riprendere anche appunto in un'area che è molto più ampia. Siamo in linea con Vincenzo Bianconi, che è presidente di Federalberghi Perugia, ma è anche di Norcia, era già stato nostro ospite nel periodo immediatamente successivo al terremoto che ha devastato Norcia e può evidentemente rappresentarci entrambe le cose, no? Da una parte il problema della ricostruzione delle persone che vivono in quello che è il cratere, in questo caso Norcia, dall'altra parte i suoi colleghi Bianconi, no? Che stanno nella provincia di Perugia e che soffrono dello stesso problema. Buongiorno e bentornato. Buongiorno. Beh sì, c'è da dire che la situazione non si è totalmente normalizzata, anche se il mercato straniero sta riaffacciandosi in Umbria, si sta riaffacciando con approfondimenti, telefonate, prenotazioni, quindi possiamo dire che fuori dal cratere il mercato straniero si sta muovendo. Stanno tornando, per così dire, qualche segnale c'è, quindi stanno tornando, riniziano a squillare i telefoni, abbiamo un po' più di resistenze sul mercato nazionale, abbiamo avuto un fine settimana con un grande evento in cui tutti i motoclub d'Italia si sono riuniti in Umbria con questa idea di rimettiamoci in moto, è stato un gran bel segnale a dimostrazione che l'Umbria, la gran parte dell'Umbria non ha problemi, è assolutamente fruibile da tutti per essere quella regione ispirante e rilassante di sempre. Per quanto vi riguarda, invece, per quanto riguarda appunto il cratere, la parte più duramente colpita, che è poi quella, no? Dove ci sono le sue strutture. Beh, questa è totalmente un'altra storia. In questo momento sentiamo sicuramente la vicinanza dei tanti nostri clienti affezionati, il problema reale è che non ci sono posti letto. Se parliamo di Norcia nello specifico, ci saranno in totale una cinquantina di posti letto, perché per le strutture ricettive non è stata prevista la delocalizzazione, quindi le strutture che vogliamo far ripartire e rimettere sul mercato in maniera competitiva e lungimirante dovranno essere in molti casi abbattute e ricostruite, in qualche caso ristrutturate pesantemente, quindi è una storia che andrà un po' per le lunghe, parliamo di qualche anno. Qualche anno ci vorrà inevitabilmente. Nel frattempo che cosa succede? Cosa succede per voi come imprenditori, dico, Sì. Beh, nel frattempo stiamo lavorando, un imprenditore non si ferma mai, stiamo organizzando molti eventi giornalieri, la ristorazione, l'appeal comunque gastronomico vicino anche alla solidarietà che in Italia e dall'estero riceviamo ci fa realizzare eventi che hanno un bel successo. Poi riaprirà qualche piccolo albergo, come ci sarà il 27 di aprile la riapertura del Re Le Chateau Palazzo Seneca con un ristorante stellato, sono dei segnali di ripartenza. È ovvio però che il problema più grande è l'investimento economico. Noi dovremmo fare delle strutture esempio in termini di sicurezza per rilanciarsi sul mercato ed essere di nuovo competitivi. Abbiamo qualche perplessità sui numeri che ci saranno messi a disposizione per ricostruire un'economia. E questo è un tema. Che cosa possiamo fare, Bianconi, noi da qua? Allora, quello che può fare il governo, quello che può fare lo Stato più o meno ce l'ha detto, nel senso che un aiuto per la ricostruzione che può essere in qualsiasi forma, immagino anche per esempio di sgravi fiscali, immagino, insomma. Quello che possiamo fare noi, c'è qualcosa che possiamo fare noi cittadini comuni? Beh, sicuramente quello di venirci a trovare in questa stagione, venirci a trovare per una giornata, venire a vedere quello che stiamo facendo. E poi come imprenditori pensiamo che la nostra ripartenza parte dalla ripartenza e dal sogno di una comunità. Abbiamo costituito un'associazione che si chiama I Love Norcia, con un progetto sociale importante che si chiama Progetto Arca, e quindi vi invito a leggerlo e magari a darci una mano a realizzarlo. Dalle persone riparte il futuro e abbiamo un futuro ambizioso da riscrivere. I Love Norcia dunque, grazie per essere stato con noi. A Vincenzo Bianconi, in bocca al lupo, che non dubito che torneremo a sentirlo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade. Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.